Come dicevamo, cari amici, per comprendere meglio e in modo più approfondito la figura di questa bimba di Nennolina, non possiamo esimerci dal presentare la figura dei suoi genitori e in particolare proprio la figura della mamma. E prendiamo a questo proposito proprio il diario scritto dalla stessa Maria Meo, cioè la mamma della nostra serva di Dio, diario che lei ha scritto solo per obbedienza al suo confessore, che era padre Stanislao Pederzani, carmelitano scalzo. E questa, la testimonianza, possiamo dire, vigorosa di una fede cristiana che tocca il cuore veramente e ci incoraggia a camminare sulla via della santità e ci fa capire anche come una bimba come Nennolina possa poi essere elevata agli onori degli altari. Cominciamo con quello che scrive la mamma nel suo diario, un diario bellissimo, scritto per obbedienza, dicevamo, al suo confessore. Scrive così, dall'inizio: il giorno 22 marzo 1914 incontrai a Roma colui che doveva essere il compagno caro, affettuoso della mia vita. L'Onnipotente, che tutto regola e dispone secondo la sua infinita e amorosa sapienza, unì in quel giorno due cuori e più tardi fuse due anime che per la distanza che li separava, io sono romagnola, lui pugliese, e anche per l'insieme delle abitudini, non era cosa facile l'andare d'accordo. Ben presto fummo fidanzati e procurammo di comprenderci e uniformare i nostri gusti e i nostri caratteri. La Grande Guerra, la Prima Guerra Mondiale, la Grande Guerra prolungò il periodo del nostro fidanzamento, che non dobbiamo poi ritenerlo tanto inutile se si pensa che all'inizio di esso mio marito non praticava la religione, mentre all'epoca del nostro matrimonio non mancava di assistere nei giorni di festa alla Santa Messa e nelle solennità frequentava i sacramenti. Un'altra bella abitudine, scrive sempre la mamma della nostra serva di Dio, un'altra bella abitudine che avrà certamente attirato sopra di noi le benedizioni del cielo, fu che nelle visite serali che faceva, quando erano fidanzati, prendemmo l'abitudine di unirci ai miei familiari nella recita del Santo Rosario per onorare la Vergine di Pompei, che scegliemmo a protettrice nostra e della nostra futura famiglia. Se all'epoca del nostro fidanzamento mio marito non praticava la religione, devo dire per la verità che egli però, specialmente la sera prima di coricarsi, pregava. Aveva anche conservato una devozione alla Vergine Immacolata appresa da bambino. Tutti gli anni, il giorno 7 dicembre, vigilia dell'Immacolata, osservava il più stretto digiuno fino a sera. «Sono convinta», dice Maria Meo, «che deve a questo se oggi vive la vita cristiana e sente un irresistibile desiderio di avanzare nella via della perfezione». Fin dal primo giorno del nostro matrimonio, la sera, prima di prendere riposo, abbiamo recitato la terza parte del Rosario. Ora, prostrata spiritualmente ai piedi della Vergine, la prego intensamente di volerci perdonare se troppo spesso non fu recitato con la debita attenzione e devozione. La meta del nostro viaggio di nozze fu Napoli, anche perché volevamo recarci a Pompei a chiedere la benedizione alla Madonna. Ricordo che in quel santuario ci accostammo ai sacramenti e che il confessore mi disse: «Col recitare fin dal primo giorno del loro matrimonio il Santo Rosario, hanno aperto la porta della loro casa alla Madonna. La Madonna è entrata e la loro famiglia sarà benedetta». In quell'occasione, dice Maria, fummo ricevuti dall'avvocato, dal beato Bartolo Longo, che ci rivolse parole di affettuoso e santo augurio. E qui inizia, cari amici, adesso un po' la salita al Calvario. Il giorno 29 novembre, scrive Maria Meo, il 1919, sabato, la nostra unione venne rallegrata dalla nascita del nostro piccolo Giovanni. Eravamo felici. Mio marito desiderava molti figlioli, io non troppo. Per la verità devo dire che quando seppi di essere in stato interessante, sentii un'angoscia che, senza sapere, mi fece piangere. Poi la gioia prese il sopravvento e fu completa. Questo fatto si è ripetuto per tutti i figliuoli, esclusa Margherita. Infatti Margherita è attualmente ancora vivente, sarà l'unica dei figli a essere a diventare grande. E io credo, dice Maria Meo, e io credo fosse un segreto presentimento della loro fine immatura. Ripeto per chiarezza che questo avveniva solo al primo momento e che per Antonietta, cioè per Nennolina, fu un'angoscia più grande e più lunga, forse perché per lei avrei dovuto soffrire di più. Il nostro piccolo Nino, diminutivo di Giovanni, era tutta la nostra gioia, dice questa mamma. Insieme con mio marito facevamo per il suo avvenire dei castelli in aria, che da forme modeste prendevano proporzioni sempre più gigantesche. Si incominciò a sognare di farlo sacerdote, poi parroco, e ci vedevamo già in campagna nella sua parrocchia, all'ombra di un pergolato. Intanto il Signore disponeva diversamente. Il mio bambino cresceva bene e io l'amavo molto. Spesso mi attardavo a contemplarlo nella sua culla, mentre tranquillo dormiva, e pensavo: se questo bambino così bello un giorno dovesse diventare cattivo e la sua anima si dovesse perdere? Signore, per carità, non guardare al mio dolore, anzi al nostro dolore, ma fallo piuttosto morire e venire con te in paradiso. E il mio cuore si stringeva in una morsa, ma la mia preghiera saliva, saliva. Il 1 luglio del 1921 portammo il nostro piccolo Giovanni al mare, a Porto San Giorgio, credendo che questo gli avrebbe fatto molto bene e lo avrebbe rinforzato. Invece, in quella cittadina circolava una malattia infettiva che colpiva grandi e piccoli, era l'enterocolite. E quando venne a nostra conoscenza, il bambino ne era già colpito. Il pomeriggio del 10 si svegliò con febbre e sintomi della terribile malattia e partimmo la sera stessa per Roma, dove ogni cura fu inutile, e sabato 23 luglio volava al cielo. Il mattino di quel sabato, scrive Maria, il dottore, dopo aver visitato il bambino, aveva detto: sta meglio, è fuori pericolo. Chi potrà ridire la nostra gioia? E invece quel giorno il bambino era più agitato del solito, e questa agitazione aumentò verso sera. Io però non capivo, non avevo veduto mai ammalati gravi, né mai sofferto per la perdita di parenti, anche lontani, quindi attribuivo questa agitazione alla convalescenza. Quando però rientrò mio marito, chiamò d'urgenza il medico e seppi che era gravissimo. Ogni speranza era perduta. E continua il diario di Maria Meo. Ricordo che mentre il mio bambino agonizzava, inginocchiato in una stanza vicina, davanti all'immagine della Madonna di Pompei, pur sembrandomi di essere sotto il giogo accasciante di qualche cosa più forte di me che mi opprimeva particolarmente la nuca, ecco qui la grande testimonianza, ebbi forza di intonare tra i singhiozzi l'Ave Maria, a voce alta, e le persone presenti si unirono alle mie preghiere. Poi mi sentii forte, mi alzai sulla porta della camera e incontrai il dottore che usciva e mi disse: non entri ancora. Volli entrare. Il mio piccolo agonizzava. In camera vi era rimasto solo mio marito. Mi avvicinai e mentre lo chiamavo piccolo santo, era un nome nuovo che sorprese me stessa. Mio marito si accostò ad una finestra e scoppiò in pianto. Intanto il mio piccolo spirava sotto i miei occhi. Non gridai, ma facendomi forza gli chiusi gli occhi con le mie mani. Grazie che il Signore mi concesse di poter fare anche per Carmela e Antonietta. In tutto questo, l'aiuto particolare della Madonna è ben palese e ben chiaro, e a lei va ogni onore e lode. Soffrimmo molto. Io ero meravigliato come il sole ancora risplendesse e le persone si potessero ancora occupare di tante cose. Poi la speranza che un altro bimbo sarebbe venuto a prendere il posto del nostro Giovanni ci fece vivere giorni di viva attesa. Era come una piccola luce lontana che a poco ci portava alla vita. Il 27 marzo 1922 il Signore ci donava Margherita. Nel vederla io provai una grande delusione. Volevo un maschio, così mi sarebbe sembrato riavere il mio Giovanni. Poi comincio ad abituarmi all'idea e amai con tutto il cuore la mia piccola, alla quale detti il nome di Margherita Emilia Giuseppina. E qui, dice Maria Meo, la scelta del nome dei nostri figliuoli non fu mai fatta a caso e senza riflessione, specialmente in ordine spirituale. Il nome di Margherita, scrive, proviene dall'avere io assistito in San Pietro alla canonizzazione di Santa Margherita Maria Lacocque, abbinata a quella di San Gabriele dell'Addolorata. Una cosa che mi colpì molto e che non ho mai dimenticato fu il vedere il fratello di San Gabriele procedere commosso sotto lo stendardo del santo. Si deve al ricordo di questa cerimonia se poi ad Antonietta, cioè a Nennolina, detti come terzo nome quello di Gabriella. Margherita intanto che crebbe sana e buona. A 3 anni la mandai all'asilo delle suore zelatrici del Sacro Cuore, in via Germano Sommelier. La maestra mi diceva, non riusciamo a sentire il suono della sua voce, è obbediente, intelligente. Se domandiamo ai bambini di fare una cosa, è la prima a farla, ma non parla mai. Questi non sono bambini, ma angeli. Per fortuna, dice Maria Meo, a casa era tutt'altro, e ciò mi confortava perché, dice, i bambini dovrebbero essere angeli per purezza, ma bambini riguardo alla vivacità. Il 4 novembre 1924 la nostra casa venne allietata dalla nascita di un'altra bimba, la piccola Carmela, dal colorito rosa, capelli biondi, dagli occhi celesti, un vero angioletto. Appena nata fu colpita da ittero maligno, da itterizia, che mise in pericolo la sua vita. Infatti il giorno 7 fu chiamato d'urgenza un sacerdote della nostra parrocchia che le amministrò il santo battesimo. Quella sera il dottore disse che la bimba sarebbe morta nella notte. La feci mettere a letto vicino a me e la vegliai assieme a mio marito. La piccola aveva le convulsioni e in un momento di crisi mio marito le fece un bagno caldo che la calmò. Il mattino il dottore fu meravigliato di trovarla viva e fuori pericolo. Era sabato. La piccola Carmela cresceva bella, robusta, ma soffriva di insonnia e piangeva spesso. Solo si calmava se si teneva sulle braccia. Nei primi 4 mesi di vita la feci visitare da 4 diversi dottori e tutti mi avevano detto che aveva nulla e che erano capricci. Mi sentivo sfinita per l'allattamento e la mancanza di riposo e un giorno decisi, aveva 4 mesi di età, di portarla dal professor Vannutelli, specialista per bambini. Ed ecco, scrive Maria, il breve ma terribile colloquio. Appena entrata il professore disse, «Che bella bimba!» «Sì, bella ma cattiva», risposi io. «Perché?» disse. «Dorme pochissimo e piange spesso». «Questo significa che l'intestino non funziona bene», disse. «Sì, benissimo», disse, «ma non le dai il latte in orario?» «Sto al minuto», risposi. «Non è possibile». Prese in mano questa manina e si fece scuro in volto e disse, «È una cosa grave». La visitò. Io, scrive Maria, mi sentivo internamente tremare. Poi disse, il professor Vannutelli, «Non c'è nulla da fare. Quando in una famiglia capita una disgrazia di queste, è un'infelicità per tutti. Non c'è che da rassegnarsi». La mia piccola, così bella, era un'infelice. Tornai a casa senza vedere la strada. Mi sembrava che il mondo avesse cambiato forma e colore, proprio come quando morì il mio piccolo Giovanni. Da quel giorno iniziò la nostra via crucis fra medici, specialisti, consulti, ma tutto inutile. Le convulsioni avevano offeso la spina dorsale e anche toccata l'intelligenza. Infatti la bimba non si reggeva in nessuna maniera, sembrava un corpo morto, udiva ma non parlava, e mai l'ho veduta fare un movimento guidato dalla ragione. Il periodo della sua vita fu il più doloroso che io avessi vissuto fino allora. Piangevo molto, ma sempre quando non ero veduta da nessuno, nemmeno da mio marito, il quale però mi confortava e mi sosteneva. Quante nottate abbiamo fatto dandoci il cambio, ma la fede in Gesù era grande. e continua scrivendo questo bellissimo diario la mamma della nostra Nennolina. Scrive: il dolore e la fatica di quel tempo è ora dimenticato. Solo ricordo che fin da quell'epoca frequentavo la comunione quotidiana. Il mattino mi recavo alla Scala Santa e ritornavo corroborata per le fatiche fisiche, ma più che altro morali, perché l'infelicità della mia piccola mi procuravano. Verso la fine dell'ottobre del 1926, Carmela si ammalò di morbillo e benché la febbre alta le procurasse forti convulsioni e il medico dicesse non vivrà più di 2 ore, la sua forte fibra ebbe il sopravvento e guarì. Ma la guarigione non fu completa e cominciò il periodo più faticoso e doloroso. Per 2 mesi dovemmo tenerla sempre sulle braccia, notte e giorno. La mia mamma, che in quell'epoca era venuta a stabilirsi con me per aiutarmi, mi fu di prezioso aiuto, dividendo con noi le fatiche e il dolore. Ricordo che facevamo un turno, la notte, perché il giorno la tenevo quasi sempre io. Fino alla mezzanotte facevo io. Ho ancora presenti le lunghe serate d'inverno, sempre con la mia piccola sulle braccia. Udivo rientrare le signore vicine che ritornavano con i loro mariti, ma non le invidiavo. Il mio cuore si innalzava in una fervente preghiera al Signore e offrivo tutto per l'anima del mio babbo, che era morto il 19 marzo di quell'anno. Poi, spesso, mi chinavo all'orecchio della mia piccola e, pur sapendo che non mi avrebbe compresa, l'incaricavo affinché, una volta giunta in paradiso, dicesse al Signore che l'amavo tanto, che lo volevo amare sempre più e che mi avesse aiutato a migliorare me stessa. La mia piccola mi sorrideva, sembrava comprendermi e assicurarmi che l'avrebbe fatto. Il giorno 22 dicembre 1926, alle 14:30, in seguito alla broncopolmonite, la nostra piccola volava al cielo. Solo verso le 11 del mattino, quando già era in agonia, fu tolta dalle mie braccia e appoggiata su un divano. Al momento della sua morte eravamo presenti solo io e mio marito. Io ero inginocchiata vicino a lei e, come già ho detto, ebbi la grazia di chiuderle gli occhi con le mie mani. E continuiamo adesso a fare l'ultima parte del diario di Maria Meo. Scrive ancora: passavano gli anni, trepidavo sempre di avere figlioli. Ciò che avevo sofferto con Carmela mi faceva tremare, era ben comprensibile. Erano trascorsi 5 anni dalla nascita di Carmela, quando, persuasa di non diventare più madre, regalai ai bisognosi la culla, corredino, biancheria, tutto quello che era necessario per l'allevamento dei figlioli. Qualche mese dopo incominciai a sentire i sintomi di un'altra maternità. La tristezza che avevo, come già ho detto, per Giovanni e Carmela, questa volta fu accentuata dal ricordo di Carmela. Ciò mi fece soffrire molto e i primi giorni dovetti lottare per tranquillizzarmi e uniformarmi alla volontà di Dio. Tutto questo servì anche a crescere i disturbi nervosi soliti della gestazione e incominciai ad offrire ogni cosa al Signore per la creatura che doveva nascere. E Dio solo sa quante cose domandavo per essa. Di umano non chiedevo che la salute, per il resto tutto quello che ci può essere di più elevato e di più santo. Nella comunione pensavo alla piccola creatura vicino al mio cuore e Gesù che se ne impossessava realmente, la faceva cosa sua, e io che gliela donavo con tutta la gioia, pronta a soffrire purché la facesse santa. Pensavo e desideravo fosse un bimbo, un sacerdote, un missionario che avesse conquistato anime a Gesù. Ero in stato interessante da 3 mesi, quando fui colpita da una violenta ipertosse. I sussulti e gli sforzi della tosse erano così forti che una volta, in una crisi violenta, caddi dal letto e ruzzolai sul pavimento. Il dottor Vecchi diagnosticò che la gravidanza non si sarebbe potuta portare a termine, ma intanto non tralasciò nessuna cura del caso. Grazie a Dio potei superare tutto, ma l'ipertosse mi aveva lasciato dei disturbi per i quali passavo le lunghe giornate distesa su un divano e avevo così occasione di soffrire e di offrire per la creatura che palpitava nel mio seno. Ricordo che una volta una signora mi disse: soffrire tanto per evitare un aborto, in certi casi si può anche procurare. Scrive Maria: sentii proprio qualche cosa ribellarsi dentro di me e risposi che il dovere di ogni mamma è quello di preoccuparsi della vita della propria creatura più che della propria. Nello stesso tempo però tremavo. Povera natura umana, come sei debole, scrive. Nelle lunghe soste sul divano pensavo a tante cose e un giorno pensai di offrire a Gesù il dolore che inevitabilmente procura la nascita di una creatura e quindi di soffrire in silenzio. E così avvenne con l'aiuto di Dio. E il mattino del 15 dicembre 1930, lunedì, scrive Maria, mi ero recata come al solito a messa e avevo fatto la Santa Comunione. La giornata era nuvolosa. Incominciarono ben presto i primi sintomi, ma restai in piedi fin verso le ore 13. Benché mi sentissi molto male, volevo prima far pranzare Margherita e mandarla dalle suore senza che dubitasse di nulla. Alle 14.30 nasceva Antonietta, la nostra futura serva di Dio. E qui, cari amici, inizia la vita della nostra piccola. 13 giorni dopo, il 28 dicembre, festa dei Santi Innocenti, Antonietta viene battezzata nella Basilica Parrocchiale di Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, e mai date luogo furono più carichi di significato proprio alla luce di quanto successe a questa bimba. E il nome che le viene imposto è proprio, come dicevamo, quello di Antonietta, poi Teresa in onore a Santa Teresa di Lisieux, Gabriella, come aveva scritto prima la mamma, in onore a San Gabriele dell'Addolorata, e poi Rosa, in onore di Santa Rosa da Viterbo. Ma ben presto anche solo il primo nome parve in famiglia troppo lungo, e perciò si optò per il diminutivo Nenne, divenuto poi in seguito Nennolina. E qui possiamo vederlo, cari amici, la famiglia è un po' come il terreno. Se è buono, ogni seme crescerà bene e la pianta che produrrà non potrà non essere forte e bella. Così è per Nennolina. La famiglia in cui ha la grazia di nascere è una vera fucina di santità, con due genitori di grande fede e una sorella, Margherita, che cresciuta a questa scuola le dona un grande amore. Dobbiamo dire che anche a livello sociale e anche economico i Meo possono considerarsi allora dei privilegiati. Infatti, nonostante il difficile contesto storico di quegli anni 30, possono permettersi delle vacanze al mare, in montagna ogni anno e anche avere l'aiuto e il sostegno di una ragazza alla pari. La prima si chiamerà Ezia fino al 1933, poi sarà la volta di Caterina Prosperi, 17enne di Colfiorito, e qui Caterina sarà testimone proprio e compagna degli ultimi intensissimi 4 anni della breve esistenza di Nennolina. Ad ogni modo, in casa Meo il denaro non si sciupa, cioè il benessere viene ben amministrato, non solo per accortezza ma anche per scelta religiosa. Oltretutto ricordiamo che la mamma e il papà appartenevano, oltre che ad Azione Cattolica, anche al Terzo Ordine Francescano. E qui, proprio cari amici, in questo clima sereno, rassicurante, c'è forse bisogno che qualcuno porti un po' di frizzante allegria. Ed ecco Antonietta, il cui carattere si dimostra da subito vivace, per non dire irrequieto. E un'educazione al tempo stesso dolce e ferma è quello che ci vuole per questa piccola peste che non riesce a star ferma neppure un secondo. Ed è proprio quello che mamma e papà sanno offrire così bene. Nel frattempo donano a questa figlioletta il latte spirituale della fede attraverso i primi insegnamenti del catechismo e l'insegnamento della preghiera. Da loro parte tutto. Antonietta assorbe tutto e, sebbene piccolissima, prega molto. E nei primi anni dimostra una devozione intensissima per l'angelo custode e in seguito anche per San Giuseppe, per Santa Teresina di Lisieux e Sant'Agnese. Arriviamo così al 1933, a 3 anni, ed è il momento di compiere il primo passo ufficiale verso il mondo esterno. Quindi la bimba viene iscritta dopo una breve frequenza in un'altra scuola all'asilo del suo quartiere, e il Palazzo Rosa di Via Sommelier, tenuto dalle religiose missionarie zelatrici del Sacro Cuore. Secondo l'organizzazione didattica italiana di allora, a Nennolina tocca frequentare il primo anno del giardino d'infanzia, che è l'attuale asilo infantile. E qui la sua prima maestra è Suor Noemi, che, sia per la bassa statura che per i suoi modi affabili, diviene presto amica di tutti i bimbi che le vengono affidati, e anche la nostra Nennolina stringerà con lei un legame di profondo affetto. Da questo momento in poi, però, le sue birichinate non si contano. Ad esempio, uno dei suoi divertimenti preferiti è quello di dipingersi con l'inchiostro del calamaio. Ma altrettanto pronte sono le scuse che rivolge subito non appena si rende conto di aver rattristato un compagno o disibudito alla maestra. E il suo modo di scusarsi è, cari amici, davvero singolare, perché ogni volta che le si concede il perdono, lei si mette in ginocchio e bacia la mano di colui al quale erano rivolte le scuse. E anche a casa fa così. Questo fa capire che non le è facile essere obbediente, e che la sua vita di santità, anche se brevissima, sarà proprio il frutto meraviglioso del suo impegno spirituale nell'offrire a Gesù tanti fioretti e tanti sacrifici spirituali. Già in quest'anno comunque si cominciano a manifestare le sue straordinarie doti, possiamo dire ascetiche. Una sera viene sentita dalla mamma pregare così: «Caro Gesù, fammi la grazia di farmi morire prima di aver commesso un peccato mortale». Ricordiamo che anche San Domenico Savio aveva espresso questo desiderio, ma San Domenico Savio aveva 6 anni, Antonietta ne aveva 3. E dal 1935, quindi aveva 5 anni, la bimba dimostra un amore sempre più grande, più forte per il Signore, per Maria Santissima e per i Santi. E questo amore si rivela ad esempio nell'episodio di Falconara sull'Adriatico, dove Antonietta si trovava assieme alla mamma e alla sorella per la messa delle donne di Azione Cattolica. Qui al momento della comunione comincia ad insistere perché anche lei, che ha 5 anni, vuole ricevere la Santa Eucaristia, cosa che, le spiega la mamma sussurrando, non le è possibile a causa proprio dell'età troppo giovane. Eppure ella insiste a tal punto, tra urla e pianti, da costringere la signora Meo a portarla fuori e a punirla con un sonoro ceffone. E qui, nel febbraio dell'anno seguente, si manifesta anche per la prima volta il male che di lì in poi segnerà l'intera, anche se breve, esistenza di Antonietta, esistenza, cari amici, di dolore indicibile, ma anche di santità grande. In una delle visite, o quella del primo aprile del 35, il professor Vannutelli diagnostica solo una leggera sinovite e prescrive quindi delle iniezioni alternate di iodio e calcio. Vista però l'inutilità della cura, dopo un nuovo consulto, avvenuto il 12 aprile, si rileva fondata l'ipotesi della presenza di un sarcoma alla gamba, un tumore, che renderebbe necessaria e urgente un'operazione chirurgica di amputazione, quindi amputazione della gambina. Dopo 8 giorni, Antonietta affronta il ricovero in clinica. Il 25 aprile, dopo 2 ore e mezzo di operazione, fa ritorno alla propria camera, dove altre 5 ammalate, compagne di dolore, l'aspettavano nei rispettivi lettini. Ma quello che colpì tutti, cari amici, che colpì parenti, amici, visitatori in genere, lo stesso personale della clinica, fu l'incredibile serenità che si impadronì progressivamente di Antonietta nei giorni successivi all'operazione. Infatti, dopo i primi comprensibili momenti di sconforto, la piccola riprese a mostrare il suo carattere schietto, allegro, al punto tale da costringere le infermiere a zittirla di tanto in tanto, perché col suo continuo canticchiare recava disturbo agli altri ammalati. E anche il reinserimento nella società non fu facile. Infatti il dover usare una carrozzella per la strada, le stampelle in casa e soprattutto l'abituarsi a uno scomodissimo apparecchio ortopedico, che a volte la sottoponeva anche agli sberleffi di qualche compagno, pesarono molto sulla nostra nennolina, che però soprattutto per non addolorare ulteriormente i genitori faceva finta di nulla, offrendo a Gesù le sofferenze sia fisiche che morali della sua nuova condizione. E qui, proprio negli ultimi 2 anni della sua vita, aveva sentito nel cuore, quindi aveva cominciato prima a dettare e poi a scrivere alcune letterine. La prima è databile verso la metà di settembre del 1936 ed è indirizzata alla mamma. Quindi inizialmente si trattò di piccoli messaggi a volte in rima per la mamma e per il papà, ma già il 18 settembre dedicò una letterina a Gesù. Scrive: «Caro Gesù Eucaristia, io oggi ti rioffro il mio sacrificio della gamba. Caro Gesù, io prima di tutto ti ringrazio che ci hai dato il mezzo di venire un giorno più vicino a te nel paradiso. Secondo, ti ringrazio perché ci hai dato la forza di sopportare con pazienza la nostra croce». Il 12 settembre del 36, padre Bonaventura Orlandi, un conventuale residente alla Chiesa dei Santi Apostoli, si reca a far visita ad Antonietta e le pone alcune domande sul catechismo. Le chiede perché Dio ci ha creato. Lei risponde: per conoscerlo, amarlo, servirlo. E lui, quasi provocando, dice: ma come lo conosci Dio? Ti ha mandato una foto? Nennolina non rispose. E non rispose neanche quando il padre le domandò come faceva a servirlo. Ma quando le chiese come si ama Dio, la sua risposta fu pronta e risoluta, e rispose: con i sacrifici. Il padre fu sorpreso, e questa volta fu lui a restare in silenzio. Poi, dopo qualche momento, rispose: hai ragione. Ritornò poi qualche giorno dopo e suggerì lui stesso ai genitori che, per la preparazione che aveva già, anche per la preparazione che aveva già questa bimba, chiese a loro di farla ammettere alla prima comunione presso qualche casa di religiose a Natale proprio. E così fu deciso, e Antonietta colse la decisione con grande entusiasmo. Da questo momento in poi, la nostra bimba, la nostra piccola serva di Dio, inizia la preparazione alla prima comunione seguendo le lezioni di catechismo proprio impartitole dalla sua cara Suor Noemi, e avrà anche un confessore, anzi un vero e proprio padre spirituale, che sarà Monsignor Dottarelli, parroco della chiesa di Sant'Eusebio a Roma, padre Dottarelli che era un fervente sostenitore dell'azione cattolica. E proprio grazie a questo Monsignore, grazie a questo sacerdote, la piccola grande anima della nostra Antonietta poté prepararsi ancor meglio a quella notte del 24 dicembre del 1936, in cui per la prima volta Gesù Eucaristia entrava nel suo cuore. E i presenti rimasero stupefatti, perché nonostante Antonietta portasse la protesi ortopedica e soprattutto nonostante il suo carattere vulcanico, restò immobile in ginocchio per tutta la durata delle celebrazioni. Ma la grandezza di questa piccola serva di Dio, cari amici, si manifesta anche in un altro episodio. Il 25 aprile del 37, vale a dire nel giorno in cui ricorreva l'anniversario dell'operazione alla gambina, dell'amputazione alla gamba, Antonietta volle celebrare l'evento con un pranzo di festa in ringraziamento a Gesù che le aveva permesso di donargli la sua gambina. Il 15 maggio dello stesso anno riceve anche la cresima nella stessa cappella della scuola dove aveva ricevuto la prima comunione. Anche questo sacramento era stato da Antonietta tanto desiderato e impazientemente atteso. Arriviamo così al 23 del mese di maggio, quando Nennolina si reca con la famiglia presso la chiesa di Sant'Antonio, in via Merulana, per la Santa Messa celebrata dal direttore del Terzo Ordine Francescano, padre Bernardino Perin. E qui fa la sua ultima comunione in chiesa. Tornata a casa, sono le 9 del mattino, si sente male, la febbre è già alta. Dopo vari consulti specialistici, vengono diagnosticati pleurite ed empiema. Il 5 giugno viene visitata dalla professoressa Minta Milani, archiatra pontificio, che ritorna poi il 22 dello stesso mese e decide l'estrazione di pus dal polmone sinistro per accertamenti. L'operazione viene eseguita in casa. Il giorno dopo Antonietta è costretta a ritornare in clinica, questo nonostante le iniziali opposizioni della mamma che, insomma, desiderava evitare a tutti i costi nuove sofferenze a questa figlia. Ma proprio la sua disponibilità, la disponibilità di Nennolina a quella che lei vedeva come volontà divina, piegò anche l'amorosa difesa della mamma. Così il 24 giugno viene nuovamente operata. Si è resa necessaria questa volta la resezione di 3 costole nel tentativo di rimuovere il sarcoma al polmone. E il miglioramento iniziale, che fece promettere al chirurgo professor Margarucci che Antonietta sarebbe finalmente guarita, fu però questa promessa di breve durata. Infatti le radici del sarcoma permanevano e la metastasi si era localizzata nel polmone sinistro con versamento pleurico. E ai genitori e alla sorella, in questo caso, non resteva altro che, si rendevano ben conto, che accompagnare quest'anima meravigliosa della loro cara Nennolina nell'ultimo difficilissimo tratto del suo calvario. Ma è proprio in questo momento che questa piccola dimostra una forza, una fede e una capacità di sacrificio degno del più alto eroismo. Ascoltiamo cosa scrive. «Soffro con gioia», scrive Nennolina, «soffro con gioia perché so di stare sotto la tua croce, caro Gesù. Con te e vicino alla Madonnina, perché vengano in paradiso le anime a migliaia, perché è un mezzo», scrive, «per arrivare in paradiso, perché io voglio essere la tua vittima d'amore». Quindi ogni sofferenza offerta a Gesù per la salvezza di tante anime. E oltre alla capacità di soffrire ridendo, Antonietta sviluppò anche quella di soffrire tacendo. E proprio dolore e silenzio sono un binomio di virtù che in lei si trova molto presente. A Monsignor Dottarelli, suo padre spirituale, ella però apriva totalmente il cuore e non nascondeva il suo dolore come faceva con gli altri. Gli diceva: «Sì, io soffro tanto», gli confidò un giorno, «però», disse anche, «se dovessi gridare questo dolore che io offro a Gesù, non varrebbe più niente. Gesù», disse, «ha sofferto tanto per noi e non aveva peccati. E vorremmo lamentarci noi che siamo peccatori e che sempre l'offendiamo?» E qui, cari amici, il grande valore che per Antonietta aveva la sofferenza si manifesta in modo straordinario nella fulminante risposta che un giorno diede in clinica al padre. Afferma una suora che operava nel reparto dove era ricoverata la bimba, che era presente in quel momento. «Un mattino», disse, «mentre aiutavo l'infermiera addetta a riordinare la camera della piccola, entrò suo babbo. Dopo averla accarezzata le domandò: "Senti molto dolore?" "Papà", rispose Antonietta, "il dolore è come la stoffa, più è forte e più ha valore". E proprio questa spiritualità dell'amore e del dolore era coltivata dalla nostra piccola santa attraverso la pratica di tanti fioretti, che lei spesso chiamava sacrifici, dicendo che ne avrebbe voluto fare tanti. E di fatto, cari amici, così è stato. Nei giorni seguenti l'operazione fu trovata spesso, pensate, coricata su un fianco, dalla parte della ferita, in modo che poggiando su di essa potesse offrire più sofferenza a Gesù. E qui, interrogata da medici, infermieri, dai parenti, visitatori, su quello che era il suo stato di salute, rispondeva sempre: «Sto bene». Ma lo diceva a tal punto che la madre stessa, pensate, si era convinta che lei non soffrisse più. E qui interveniva a più riprese proprio il dottor Margarucci, che a malincuore le assicurava il contrario. E come non sottolineare anche la sua grande e meravigliosa fedeltà alla preghiera di ogni giorno. Sempre in clinica successe questo. Verso le 23, Nennolina smette a un tratto di lamentarsi, è una testimonianza che ci viene data. E a un tratto, con voce per la prima volta naturale dopo l'operazione, rivolta al papà, disse: «Papà, io questa sera non ho detto le preghiere». «Non fa nulla», risponde il papà, «cerca di riposare». La bimba incominciò a lamentarsi di nuovo e, ancora interrompendo il lamento, disse: «Babbo, devo dire le preghiere». Il padre le disse: «Pensando di far cosa buona, le dirai domani, riposa adesso». Lei riprese: «Ma ti dico che devo dire le preghiere questa sera, domani è un'altra cosa». Il papà comprese e cominciò le preghiere. Antonietta lo seguì con uno sforzo ben visibile. Poi a un certo punto disse: «Papà, io non posso più parlare, dille tu, io ti seguirò con la mente». Ebbene, cari amici, quello che Antonietta insegnava in quel momento, possiamo dire dall'alta cattedra del dolore e dell'amore, è la necessità di pregare sempre, senza stancarsi, senza rimandare a domani, qualunque sia lo stato psicologico o fisico nel quale ci si trova. E proprio in questo, come in tanti altri avvenimenti, ritorna proprio la piccola via della sua maestra, cioè di Santa Teresina di Lisieux. E tutto questo amore fa sgorgare, noi non possiamo dirle tutte, sono 158 circa le varie letterine che ha scritto questa piccola serva di Dio, ma proprio questo amore fa sgorgare dal suo cuore quest'altra bellissima letterina che lei scrive a Gesù e dice: «Caro Gesù crocifisso, io ti voglio tanto bene e ti amo tanto. Io voglio stare sul Calvario con te e soffro con gioia perché so di stare sul Calvario. Caro Gesù, io ti ringrazio che mi hai mandato questa malattia perché è un mezzo per arrivare in paradiso. Caro Gesù, di a Dio Padre che amo tanto anche Lui. Gesù, io voglio essere la tua lampada e il tuo giglio, caro Gesù. Dammi la forza necessaria per sopportare i dolori che ti offro per i peccatori. Caro Gesù, di alla Madonnina che l'amo tanto e voglio stare insieme a lei sul Calvario perché io voglio essere la tua vittima d'amore. Gesù, ti raccomando il mio padre spirituale e fagli tutte le grazie necessarie. Ti raccomando i miei genitori e Margherita. Caro Gesù, ti mando tanti saluti e baci». Si firma Antonietta di Gesù. E qui, cari amici, è tutta questa grandezza spirituale, e la si deve in buona parte proprio all'insegnamento dei genitori e al grande alla grande grazia che questa bimba ha avuto da quando è nata, praticamente. Un'esistenza breve ma una grande santità. E arriviamo così al sabato, il 3 luglio 1937, alle 6 del mattino, dopo una notte segnata dal dolore e da eventi e coincidenze che si possono spiegare difficilmente, l'anima di Antonietta raggiungeva il suo cuore, che già da tempo si trovava presso presso il cuore del Signore. Questo proprio mentre un sacerdote le stava portando in quel momento la Santa Comunione. E le ultime parole che aveva ascoltato erano quelle del papà che era presente e che, su consiglio dell'infermiera, le sussurrava in quegli ultimi istanti: «Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia». Queste furono le ultime parole che sentì la nostra piccola santa, ma le sue ultime parole, quelle di Nennolina, furono il riassunto della sua vita, l'accostamento semplice, cari amici, dei tre più grandi amori della sua vita. Disse: «Dio, mamma, papà». Così spirò. Aveva 6 anni e mezzo.